Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Cosa sono disposti a fare i consumatori italiani per risparmiare? Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali, è l'interrogativo con cui apriamo questa nuova puntata di Essere e Avere. Dimmi cosa compri e ti dirò chi sei. Sulla scia dei risultati di un concorso promosso nel circuito della grande distribuzione, scopriremo di cosa si tratta tra pochissimo. Cerco un pony, offro una camera con vista, scambio un pernottamento con 15 amicizie Facebook. Sono solo due delle offerte per la settimana del baratto al via da lunedì nei bed and breakfast italiani, un'idea che prende sempre più piede e fa riscoprire un nuovo modo di viaggiare. Oggi vi portiamo anche a teatro con uno spettacolo che ha a che fare con la contraffazione. Per il focus sui trend parliamo invece dei family activist, quando il potere grigio fa tendenza. Nuovo appuntamento infine con Italian Factor, l'acceleratore del Made in Italy, afferma Francesco Morace. La virtù di oggi è la versatilità. La borsa della spesa. Conservo e riutilizzo tutto. Le scintillanti carte delle uova di Pasqua sono perfette per decorazioni natalizie, feste di compleanno e carnevale. Io, mamma, mi occupo della spesa e delle offerte. Mio figlio di 8 anni ha il compito di spegnere le spie degli oggetti elettronici non in uso. La mia bimba si occupa del riciclo e mio marito va al lavoro in bici. Riciclo tutto il riciclabile, persino il sottopelo del mio San Bernardo, che dopo averlo opportunamente cardato e filato, trasformo in maglie. Compra solo ciò che è necessario, perché ciò che non è necessario, anche se costa poco, è molto caro. Solo alcune delle storie ingegnose e divertenti tratte dalle testimonianze di oltre 10.000 consumatori che hanno partecipato al concorso Il Genio del Risparmio, promosso da Nectar, primo programma fedeltà multipartner in Italia. Concorso per premiare le migliori idee dei consumatori sul tema del consumo intelligente. Molte storie evidenziano un approccio quasi scientifico al risparmio, ci dice Silvia Biego, direttore marketing Nectar Italia, e raccontano molti dei trend di consumo emergenti, dal riciclo al fai da te fino al baratto. Anzitutto emerge che il tema è molto sentito e che la necessità aguzza l'ingegno, quindi un approccio molto completo e variegato al tema del risparmio. Non soltanto la pianificazione delle visite di shopping, la lista accurata in tutte le maniere dei desideri e delle necessità, la ricerca del minore spreco, ma anche la creatività, quindi la possibilità, l'opportunità di riscoprire attività fatte a mano, quindi il fai da te. Sicuramente questo è uno dei trend che abbiamo notato nella stragrande maggioranza delle storie. La capacità anche di recuperare e di fare riciclo, di fare scambio, una sorta di ritorno ai valori di una volta. Le storie notevoli sono state veramente tante. Ci sono quelle più originali che hanno dimostrato come si può riutilizzare tutto, persino la pelliccia del cane San Bernardo nel momento in cui viene dosato. Quelle che mi hanno colpito molto sono quelle che raccontano il piacere di stare insieme, quindi il piacere di riscoprire anche il gioco, travestire il risparmio, la ricerca delle occasioni più convenienti come gioco, all'insegna della condivisione e anche di una gratificazione nell'adottare un comportamento intelligente. Fra le oltre 10.000 storie inviate, la giuria ha premiato appunto i tre geni, cui sono andati l'equivalente di 5.000 euro ciascuno in buoni spendibili nel circuito. Vita Gentile è una di loro. Solitamente le promozioni nei vari supermercati coincidono più o meno nelle giornate, quindi io appunto raccolgo i volantini della mia zona, cerco tutti i prodotti di cui ho bisogno, vedo, confronto nei vari supermercati quello più conveniente, faccio una lista e poi diciamo un giorno che coincide con tutte le offerte dei vari supermercati esco e faccio la spesa nei vari supermercati in modo da ottimizzare anche il consumo di benzina, insomma. Ha preparato anche un foglio Excel per tenere sotto controllo tutto. Sì, diciamo quella è un po' una deformazione professionale. Lei ha risparmiato caratteri anche nel messaggio con cui si è candidata. Per lei il risparmio è una filosofia di vita. Sì, diciamo, è stata un'ironia quella che ho voluto fare proprio per attirare la giuria, essendo che i caratteri erano limitati. Allora ho detto, in questo modo posso esprimere più idee. Abbiamo citato poco fa il baratto come strategia di risparmio, una delle pratiche simbolo dei nuovi stili di vita e di consumo, espressione della cosiddetta sharing economy, il consumo collaborativo. Una delle iniziative più interessanti in questo senso è sicuramente la settimana del baratto, promossa per il quinto anno consecutivo dal portale bedandbreakfast.it. Dal 18 novembre, da lunedì, nelle 2100 strutture aderenti sarà possibile richiedere un soggiorno in cambio di prodotti o servizi. Un modo per riscoprire un senso dell'ospitalità che è andato perdendosi, ci ha detto Clara Corallo, marketing manager di bedandbreakfast.it. Sono 2100 le strutture aderenti a tutt'oggi, 10.000 le richieste e le offerte di baratto che stanno viaggiando sul nostro sito settimanadelbaratto.it, la pagina Facebook ha superato 100.000 fan, il sito ha superato le 150.000 visite in 2 mesi, insomma è un bel successo. Tra le cose più richieste del bed and breakfast, al di là del viaggio, perché spesso bed and breakfast vogliono barattare ospitalità per altra ospitalità, c'è richiesta di aiuto per lavori in casa, richiesta per piccoli lavori di carpenteria, tinteggiatura. Proprio di ieri l'ultima richiesta che abbiamo visto riguardava un bed and breakfast in Valtellina che aveva bisogno di braccia forzute per spostare dei tronchi che avevano occluso il passaggio per il bed and breakfast, perché il bed and breakfast si trova nel bosco. E quindi questi desideri che vanno per la maggiore tra le strutture. Tra i viaggiatori invece il baratto più offerto è tutto quello che riguarda la comunicazione del bed and breakfast in sé, e quindi foto, video, siti web del bed and breakfast, un sito web in tante lingue, oppure anche la creazione e la gestione di una pagina Facebook, ma poi i grandi classici, le conserve, i prodotti tipici, le lezioni, quelle tantissime, dal cake design alla danza del ventre, allo yoga della risata, all'equitazione, alla gestione del cucciolo di cane, insomma veramente tante cose. Viene riscoperta l'ospitalità vera, quella che è fatta di conoscenza, che è fatta di amicizia. Spesso tra i bed and breakfast e gli ospiti della settimana del baratto si crea una vera e propria amicizia, rimangono in contatto, si sentono, si scrivono, partono altri tipi poi di collaborazione, altri tipi di conoscenza, altri tipi di relazione. Signore e signori, tutto quello che sto per dirvi è falso. Questo è il titolo dello spettacolo in scena questa sera a Milano nell'ambito di Golosaria, grande kermesse del gusto italiano e dell'alto artigianato enogastronomico, una pièce teatrale sul tema dei falsi, non solo a tavola. Teatro civile anticontraffazione, la definizione dell'autore Andrea Guolo. Il messaggio diretto al consumatore è quello di fare acquisti in maniera consapevole per proteggere l'economia, perché dai falsi ci guadagna solo la criminalità organizzata, non ci guadagna la società ci perde 110.000 posti di lavoro all'anno e un fatturato che è stimato sui 7 miliardi di euro l'anno, e di farlo anche nell'attenzione della propria salute, perché comprando un falso c'è la possibilità di comprarsi per esempio un paio di scarpe che possono essere prodotte con materiali tossiconocivi, oppure via internet dei farmaci che possono veramente far male alla salute perché non contengono quello che dovrebbero contenere, oppure un prodotto alimentare che oltre ad essere il più delle volte contraffatto potrebbe essere anche pericoloso. Un tempo eravamo un paese autentico, povero ma vero. Oggi passiamo le vacanze in coda al casello autostradale, bruciamo la cena seguendo le istruzioni dei tanti programmi di cucina. Il tempo libero lo passiamo ai videopoker e abbiamo rinunciato definitivamente a distinguere il vero dal falso. Lo spettatore è molto curioso, si sta avvicinando sempre più a questi argomenti, bisogna chiaramente raccontarli nella maniera giusta, con una maniera coinvolgente, che poi è il teatro che fa Tiziana Di Masi, coinvolgendo il pubblico, portandolo sul palcoscenico a degustare per esempio questi prodotti. Questa sera a Golosaria saranno chiamati degli spettatori a fare una degustazione di oli, confrontando un olio vero, extravergine di oliva, con un olio contraffatto. Chi ci segue da tempo lo sa quanto ci piacciono le storie che noi classifichiamo come consumi sociali, iniziative che mettano insieme prodotti, servizi e solidarietà. È partita lo scorso 7 novembre su eBay l'asta Bags for Dynamo, 29 borse della fashion designer Donatella Lucchi personalizzate dalle celebrities per sostenere Dynamo Camp, la onlus che organizza camp di terapia ricreativa totalmente gratuiti per bambini affetti da patologie gravi e croniche. Marta Carpinelli, proprietaria del brand e ambasciatrice di Dynamo Camp. Ci sono alcuni del mondo della musica come Carmen Consoli, Paola Iezzi, c'è il mondo dello sport, c'è la nazionale di rugby, la squadra del Milan, Andrea Ranocchia dell'Inter, Regina Baresi, la Flavia Pennetta, Carlo Molfetta che è il capitano della squadra di Taekwondo che ha vinto le Olimpiadi a Londra, c'è il mondo della televisione perché c'è Alessandro Catelan che è il conduttore di X Factor, la Filippa Lagerbach, Alvin, c'è il mondo dell'arte, c'è Marco Lodola che ci ha rappresentato anche all'ultima Biennale di Venezia per l'arte contemporanea, c'è Microbo che è una meravigliosa artista, street artist, soprattutto è come vedere 29 persone perché avendo lasciato completa libertà ognuno di loro ha veramente personalizzato, c'è anche il bravissimo Bruno Barbieri, lo stavo dimenticando quando in realtà lui si è veramente dedicato, ha fatto una borsa con un disegno meraviglioso di un ex voto, come potrete anche vedere dall'asta su eBay digitando Bags for Dynamo usciranno tutte le 29 borse, ci sono state delle personalizzazioni anche molto impegnativa. Dai Techno Angels ai Senior Designers, grazie ai Family Activist, il potere grigio fa sempre più tendenza e trova nuovi terreni comuni intergenerazionali. Ne parliamo tra pochissimo, subito dopo la pausa nel focus sui trend di questa settimana. Restate con noi. Essere e avere. Venite a trascorrere la vostra seconda giovinezza in un palazzo indiano. Archi e baldacchini e una miriade di balconi. È un complesso di lusso dedicato esclusivamente a clienti di una certa età. Come la Costa Brava. Sì, più o meno, ma con tanti elefanti. E io ho fatto un sogno, amici. Creare una casa di riposo così bella che i nostri clienti non vorranno più morire. Questo uomo è morto. Su Naina andrà tutto bene alla fine. E se non andasse tutto bene, vuol dire che non è ancora la fine. Non ha paura di fare sesso alla sua età? Se muore, pazienza. Focus sui trend. Com'è cambiata anche sul grande schermo? Questo era Marigold Hotel, solo una delle ultime pellicole sul tema, la rappresentazione degli ultra sessantenni. Sono i Family Activist, gli attivisti della famiglia, i protagonisti del focus sui trend di questa settimana. Sono i nonni ultra sessantenni che stanno salvando le famiglie dalla crisi, protagonisti del cosiddetto invecchiamento attivo e di nuove attenzioni dal mondo dei consumi. Ne parliamo come sempre con i ricercatori di Future Concept Lab che ci aiutano a tracciare le nuove tendenze e i fenomeni sociali in evoluzione. Isabella Guaitoli, bentrovata. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora Isabella, chi sono questi Family Activist? I Family Activist sono, diciamo, i nuovi anziani del futuro, sono quegli over 60 e in Italia forse anche over 65, la terza età, che stanno aiutando le proprie famiglie, ma non solo le proprie famiglie, anche la comunità locale di riferimento a sopravvivere o a vivere bene, a trovare occasioni felici anche in un momento di crisi come quello attuale. Degli aspetti molto interessanti sono quelli che riguardano le nuove relazioni che si stanno instaurando tra le nuove generazioni e i senior, i family activist, perché progetti intergenerazionali interessanti lavorano sullo scambio reciproco che queste diverse generazioni possono innescare. Vediamo allora per esempio una recente campagna promossa da un'organizzazione no profit che si chiama Do Something, che si occupa di aiutare i giovani a dire la propria attraverso il mondo digitale, i new media soprattutto, e la campagna si chiama Grandpa Parents Gone Wired è stata promossa insieme ad Intel, e questo già mette in luce come le grandi aziende della tecnologia siano interessate comunque ad uno scambio intergenerazionale. La campagna ha fatto in modo di favorire l'impegno di giovani di un'età compresa tra i 13 e i 25 anni a insegnare le proprie conoscenze che riguardavano appunto il web, la tecnologia, l'utilizzo anche di Skype e di altri strumenti di questo tipo a persone senior. In palio una borsa di studio da $5,000. Vediamo anche che questo tipo di progetti si sta diffondendo un po' ovunque. In Italia, per esempio, il progetto nato spontaneamente da una scuola secondaria di Lecce, si chiamano Techno Angels, giovani volontari 2.0, che si propongono come insegnanti one-to-one per persone, anche lì senior, utilizzando i laboratori della propria scuola che nel pomeriggio rimanevano inutilizzati. Ancora più interessante, perché qui prevede proprio uno scambio di saperi, è il recentissimo progetto italiano Interage, che nasce con una collaborazione tra Fondazione Mondo Digitale e CNA Pensionati, l'associazione dei pensionati legati alla piccola e media imprenditoria e ex artigiani, e anche in questo caso sponsorizzato da una grande azienda che è Google. Ecco, allora, mentre i giovani insegnano appunto l'utilizzo dei new media e del web agli anziani, ex artigiani appunto, essi a loro volta insegnano che cosa vuol dire fare imprenditoria made in Italy ai giovani. Fuori dalla rete cosa possiamo segnalare, Isabella? Un caso interessante sicuramente è quello del laboratorio creativo di Zurigo, che si chiama Senior Design Factory. È un laboratorio in cui anziani e giovani lavorano insieme per creare nuovi prodotti di design. Si tratta non solo di progettazione, ma anche proprio di un laboratorio di realizzazione, e che si è trasformato in un negozio e recentemente è diventato anche un caffè, con una cucina in cui le ricette patrimonio di questi anziani che collaborano nel Senior Design Café diventano piatti rinnovati da poter gustare lì in loco. Quindi il dialogo intergenerazionale che passa dal design e dalla cucina, quindi veramente un esperimento, un progetto bellissimo, sicuramente da copiare anche in Italia. Ecco, per concludere, Isabella, ci sono luoghi o città simbolo di questa trasformazione? Sicuramente, e in questo caso la sperimentazione più interessante è quella che riguarda, a nostro avviso, le modalità di abitare, l'esperienza del co-housing, che vede, secondo noi, in Berlino il panorama più interessante di adesso. La possibilità di uno scambio abitativo che non diventa uno scambio puramente economico, ma diventa uno scambio anche proprio di prestazioni, di servizi e di supporto anche emotivo. Un progetto analogo interessante che si sta sviluppando dal 2006 in Italia è quello che si chiama Progetto Abitare Solidale, proposto da Hauser di Firenze, e che riguarda appunto la possibilità di mettere in contatto anziani soli che hanno un'abitazione troppo grande per loro con persone invece che hanno bisogno di un supporto di tipo economico, e che quindi si scambiano questa modalità di vivere insieme senza uno scambio economico, ma con uno scambio piuttosto di servizi e di supporto anche sociale. Italian Factor. Chiudiamo la puntata come sempre con l'analisi, la visione strategica di chi ci sta guidando il nostro percorso alla ricerca dell'Italian Factor, il fattore di eccellenza che va ritrovato in tutto quanto possa parlare di Italia al mondo. Parliamo di brand, prodotti, aziende, start-up, ma anche di consumatori in grado di riconoscere il giusto valore di quello che acquistano. L'analisi è quella di Francesco Morace, sociologo, fondatore di Future Concept Lab. Francesco, ben ritrovato. Buon pomeriggio a tutti. La virtù di oggi per riconoscere l'Italian Factor qual è? Oggi è la versatilità, che è la nostra capacità straordinaria di cogliere elementi di opportunità, di adattarci a contesti a volte duri, difficili per altre culture. Noi abbiamo nel nostro codice genetico questa versatilità che viene quasi sempre poi trasformata in creatività. Da questo punto di vista si deve dire che l'Italia è il paese delle grandi trasformazioni. Noi non siamo un paese di materie prime, compriamo tutto all'estero e poi riusciamo a trasformare con la nostra creatività, e quindi è una creatività applicata. Ecco, spesso nelle ricerche sulla creatività l'Italia addirittura non viene considerata nei primi posti, perché non facciamo tanta ricerca di base, siamo più bravi nella ricerca applicata. È la virtù che unisce l'artigianalità con la grande serie industriale, così? È proprio così, e la nostra versatilità viene applicata in diciamo i diversi posizionamenti di mercato. Si va dall'extra lusso della Ferrari, che è chiaramente un laboratorio straordinario di artigianalità applicata, ma poi se guardiamo a largo consumo e guardiamo a un'azienda come Ferrero, ci rendiamo conto che è la tradizione artigiana di Michele Ferrero e poi del suo papà che ha poi permesso di creare straordinari prodotti dalla Nutella in giù, che sono considerati non solo creatività applicata, ma prodotti di grande qualità. Ecco. Questa, come molte delle altre virtù che abbiamo citato in queste settimane, penso alla familiarità, penso alla varietà, per esempio, è in grado di mettere insieme vecchio e nuovo, di dare continuità. Sì, su questo credo sia importante ricordare questo lavoro, questo progetto e questo libro di Stefano Micelli, che è Futuro Artigiano, perché finalmente da qualche anno, sulla scia della sua visione, si è capito che il mondo digitale può essere in qualche modo letto dall'Italia seguendo la propria vocazione artigianale. Quindi tradizione e innovazione possono incontrarsi in modo assolutamente significativo e con risultati di grande successo. Francesco Moracce, grazie, a sabato prossimo. Grazie a voi. E grazie, al di là del vetro, anche a Filippo Aureggi. Finisce qui anche questa nuova puntata di Essere Avere. Se vi siete persi qualcosa, venite a trovarci sulla nostra pagina Facebook e potrete riascoltarci anche dal sito di Radio 24, in attesa di risentirci, come sempre, sabato prossimo alle 16:30. Non mancate. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.